Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia per il racconto della giornata economico-finanziaria. Quindi stasera e domani sarò io a farvi compagnia per il appunto resoconto delle giornate economiche che sono piuttosto intense, come sapete bene. Da qualche giorno ci stiamo di nuovo riconfrontando con forti turbolenze sui mercati finanziari, anche se c'è da segnalare che almeno oggi, anche se è successo nella seconda parte della giornata, il quadro è un po' migliorato. Noi chiaramente guardiamo soprattutto Piazza Affari, più 0,75% adesso per il FTSE MIB. Poca cosa rispetto a quello che ha lasciato sul campo negli ultimi giorni, ma quantomeno vediamo un più 3,5, più 4 punti sulle principali banche italiane. Questo un pochino oggi ci rasserena. Anche l'euro sul dollaro ha riconquistato 1,26, sono invece ancora in difficoltà le altre piazze europee, mentre Wall Street, che oggi ha si è confrontata con alcuni dati macroeconomici che sono stati diffusi nel primo pomeriggio, in questo momento è positiva. Più serenità sulla crisi del debito sovrano europeo non si può certamente dire questo, però almeno oggi c'è questo rimbalzo, magari sarà poco più che tecnico per Milano, e comunque c'è ancora domani. E soprattutto, che cosa c'è? C'è un fine settimana caldissimo, ci sono le elezioni greche e vedremo lunedì soprattutto che cosa succederà e quale sarà la reazione del mercato rispetto all'esito elettorale. Di questo naturalmente parleremo nel corso della nostra trasmissione. Oltre al dettaglio della giornata di Piazza Affari, faremo un punto su questa giornata, sulle notizie che riguardano la Spagna, la Grecia per l'appunto, le dichiarazioni dei vertici degli organismi internazionali che stanno controllando in maniera ossessiva qual è il livello del dibattito politico per risolvere la crisi dell'eurodebito, e poi approfondiremo chiaramente anche la dinamica della nuova asta dei titoli di Stato che c'è stata oggi da parte del Tesoro italiano, che ha collocato BTP a 3,8 anni, tutto collocato, l'importo che era previsto 4,5 miliardi, ma naturalmente i rendimenti chiesti al mercato anche oggi sono schizzati ai massimi dal dicembre scorso. Lo spread nella seconda parte della giornata ha rallentato un po' ed è intorno ai 460 punti base. Oltre a questo, di che cosa parleremo? Parleremo di questa iniziativa preannunciata ieri, peraltro casualmente, perché il presidente del Consiglio Monti ha fatto riferimento a questa cessione del patrimonio pubblico solo su stimolo di una domanda di un giornalista al termine appunto del suo incontro con il ministro delle finanze tedesco Schäuble. E allora, siccome ci si preparerebbe a cedere asset pubblici, abbiamo chiesto un commento ad alcuni esperti del settore per capire quali sono i vantaggi di un'operazione di questo tipo, quanto ne potrebbe ricavare soprattutto il governo, il tesoro, e quindi in che modo il debito pubblico potrebbe alleviare il peso enorme che ha. Diciamo che questi sono fondamentalmente appunto i temi di oggi, ma ce n'è anche un altro che ci è scoppiato per le mani proprio nella prima parte del pomeriggio. Il Tribunale di Milano ha dichiarato fallite Sinergia ed Imco, che sono le holding di Casa Ligresti, un crack da 400 milioni di euro. Cercheremo di capire le motivazioni per cui per il Tribunale di Milano non si poteva procrastinare questa decisione, non si poteva dare ulteriore tempo per il salvataggio di queste aziende. Cosa c'è dietro anche questo fallimento? Temi sui quali anche Sebastiano Barisone è ritornato appunto di frequente. Una brutta storia italiana, per la verità. Vedremo che cosa succederà più tardi, appunto ci racconterà tutto un collega del Sole 24 Ore, Fabio Pavesi, che oggi appunto in tribunale ha seguito le novità della giornata. Questi sono alcuni dei temi che appunto approfondiremo oggi. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Peraltro, prima di andare alle notizie in breve della giornata, volevo preannunciare una cosa agli ascoltatori, perché ancora prima di iniziare un ascoltatore da Roma ci ha scritto chiedendoci che cosa ne pensiamo della notizia relativa a Banca Network Investimenti, che sembra abbia bloccato i prelievi a Bancomat. Non sembra, li ha bloccati. I 30.000 correntisti non possono più utilizzare i loro conti correnti, questa banca è commissariata da molti mesi. Vi preannuncio che domani ce ne occuperemo a Salvadanaio per capire cosa sta succedendo, perché c'è questa situazione, come verranno tutelati i correntisti, ma soprattutto anche tutti i risparmiatori che attraverso questa banca, che funzionava anche attraverso la rete di promotori finanziari, cosa succederà? Assolutamente nulla a coloro che hanno acquistato prodotti di investimento e polizza assicurativa appunto attraverso questa banca. Quindi domani a Salvadanaglio alle 12.10. Adesso le notizie in breve della serata. Bene bene, intanto Milano sta continuando a salire, guadagna un punto. Cosa è successo oggi sul versante delle materie prime? L'oro stabile a 1617 dollari l'oncia, il petrolio oggi a New York ha aperto in leggero rialzo rispetto alla chiusura di ieri, siamo però su livelli piuttosto bassi da mesi, 82,95 dollari al barile. Nei weekend dal 16 giugno al 2 settembre Eni ridurrà il prezzo della benzina e del gasolio per tutti i consumatori che faranno rifornimento in modalità iperself in circa 3.000 stazioni Eni e Agip su tutto il territorio. Lo sconto di circa 20 centesimi al litro rispetto alla modalità servito verrà applicato dalle 13 del sabato alla mezzanotte della domenica per un risparmio di circa 10 euro a pieno. Sabato e domenica prossimi il prezzo sarà di 1,60 euro per la benzina e di 1,50 euro per il gasolio. Allora andiamo alla crisi europea. Per la crisi del debito europea c'è bisogno che venga presa un'azione ad ampio raggio, è urgente, lo ha affermato oggi il direttore delle relazioni esterne del Fondo Monetario Internazionale, Jerry Rice. E tra l'altro pare che una riunione dei ministri delle finanze in teleconferenza potrebbe tenersi domenica sera dopo il risultato del voto in Grecia. Lo riferiscono fonti europee che ieri avevano dato conto anche di un consulto in seno al G20 già domenica sera con i leader presenti in Messico e poi ancora lunedì mattina. Notizia dalla Germania, dalla Grecia, il tasso di disoccupazione in Grecia nel primo trimestre dell'anno è salito al 22,6% dal 20,7% dei tre mesi precedenti, segnando un nuovo massimo storico. Oggi lo ha fatto sapere l'agenzia Reuters citando l'ufficio statistico ellenico. Allora, perché stamattina le borse si erano svegliate di nuovo di pessimo umore? Ancora una volta per colpa, ma certo è stato l'ennesimo pretesto, di un'agenzia di rating, perché Moody's ha tagliato il rating della Spagna a BAA3 da A3. Il rating resta peraltro sotto osservazione per ulteriori downgrade, per ulteriori tagli. Ma non solo, Moody's ha tagliato anche il rating di Cipro a BA3 da BA1. Anche in questo caso il rating rimane sotto osservazione per possibili nuovi ulteriori downgrade. A pesare nella scelta di Moody's è l'aumento delle chance che la Grecia esca dall'area euro. Dopo la decisione di Moody's stamattina, naturalmente i bonus spagnoli, i titoli decennali hanno di nuovo ripreso il volo in termini di rendimento sul mercato secondario spagnolo, appunto hanno toccato la soglia critica del 7%, un livello questo considerato generalmente insostenibile nel lungo termine. Il livello raggiunto dai rendimenti dei titoli di Stato spagnoli è insostenibile, lo ha detto in Parlamento il ministro dell'economia spagnolo De Guindos, aggiungendo che la situazione di volatilità e tensione è dovuta alle imminenti elezioni in Grecia. Beh, un po' è anche colpa loro, per la verità non è colpa solamente della Grecia. E tra l'altro oggi sempre dalla Grecia si è avuta una statistica relativamente ai prezzi delle abitazioni, la forte crisi spagnola come sapete è determinata proprio dallo scoppio della bolla immobiliare. E beh, i prezzi delle case spagnole sono scesi del 12,6% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnando un calo record a causa della recessione e della stretta creditizia. Tema che approfondiremo più tardi, lo sapete c'è stato oggi un balzo dei rendimenti nell'asta di BTP a 3 anni, il Tesoro italiano ha venduto i titoli con scadenza marzo 2015 per tutti e 3 miliardi complessivi appunto che si era prefissato di vendere, ma i tassi sono saliti al 5,30% dal 3,91% dell'analoga asta di maggio, segnando un nuovo massimo da dicembre. Vediamo un po' che cosa ha detto oggi la signora Merkel. La cancelliera tedesca ha sollecitato la Spagna a chiedere gli aiuti europei al più presto, più velocemente lo farà meglio è, ha detto in intervento al Parlamento, al Bundestag. Oltre a questo, la cancelliera tedesca si è detta favorevole ad un ruolo più forte della Banca Centrale Europea sul controllo delle banche. La Merkel ne ha parlato a Berlino in un discorso tenuto appunto, come dicevamo prima, al Parlamento in vista del G20. Oggi è stato diffuso il bollettino mensile della Banca Centrale Europea. Cosa ha fatto sapere? Questo mese il Consiglio Direttivo della BCE ha detto che terrà sotto stretta osservazione i futuri andamenti e assicurerà la stabilità dei prezzi a medio termine nell'area dell'euro, intervenendo con fermezza e tempestività. E quando la BCE dice così significa che in genere interviene sui tassi di interesse. Non capisco quale tipo di nervosismo ci sia a proposito dei prezzi, per dover appunto rendere necessaria una dichiarazione di questo tipo, però ne prendiamo atto. La BCE ha fatto anche sapere che i prestiti a famiglie e imprese dell'Eurozona sono rallentati con una crescita dello 0,8% in aprile contro l'1,2% di marzo. Per la BCE è probabile che la domanda di credito risulti contenuta nel periodo a venire. E la BCE ricorda alle banche che è essenziale che seguitino a rafforzare ulteriormente la propria capacità di tenuta. Alla fine dello scorso anno c'è stata un'acuta ischemia del credito, ma adesso sta rifluendo nelle arterie, nonostante rifletta ancora la situazione generale. Lo ha osservato oggi, curioso paragone con la circolazione del sangue, lo ha osservato oggi a Venezia Fabrizio Saccomanni, direttore generale della Banca d'Italia, nel corso dell'incontro L'economia del Veneto nel 2011, promosso dall'Università Ca' Foscari e dalla stessa appunto Banca d'Italia. Una notizia, un'anticipazione di un tema che approfondiremo tra poco. Il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato il fallimento di Inco e Sinergia, le holding personali della famiglia Ligresti. Da quanto si è saputo, il crack di queste due società ammonta a circa 400 milioni di euro. Fra un po' cercheremo di capire che ripercussioni ci sono per tutta la società che fa capo, per tutte le società che fanno capo alla famiglia Ligresti, in primo luogo appunto la compagnia di assicurazione fondiaria SAI, che peraltro è oggetto del contendere appunto fra varie altre aziende, anche se sembra che a questo punto possa esserci entro breve tempo una aggregazione definitiva appunto con i bolognesi di Unipol, ma non sappiamo anche lì che evoluzione prenderà questa vicenda. Detto questo, oggi ci soffermeremo soprattutto sulla cronaca giudiziaria. Direi che però per il momento, per le brevi, è tutto. Andiamo al primo approfondimento di oggi. Allora, ieri forse non era stata sufficientemente enfatizzata o compresa questa dichiarazione appunto di Monti, che poi è stata invece analizzata, spezzettata, gli è stata fatta l'analisi logica e grammaticale per tutte le ore successive alla sua divulgazione. Ieri, al termine dell'incontro con il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, il premier Mario Monti a Berlino, dove ha ricevuto un premio, ha fatto sapere che al momento, peraltro è stato sollecitato direttamente da un giornalista, non ha fatto questa dichiarazione di sua spontanea iniziativa, ha fatto sapere che non solo il governo non intende escludere la cessione di quote dell'attivo del settore pubblico, ma, queste sono state le sue testuali parole, la stiamo preparando questa cessione, come abbiamo già annunciato, e presto seguiranno degli atti concreti. Abbiamo predisposto dei veicoli, fondi immobiliari e mobiliari, attraverso i quali convogliare in vista di cessioni attività mobiliari e immobiliari del settore pubblico, prevalentemente a livello regionale e comunale. Qualche cifra per farvi capire di che cosa stiamo parlando: il patrimonio statale vale 185 miliardi di euro, il patrimonio di regioni ed enti locali è quasi il doppio, 386 miliardi di euro. E allora, per capire che tipo di iniziativa potrebbe essere quella che il governo ha intenzione di prendere, soprattutto che beneficio potrebbe portare al bilancio pubblico, Valeria De Rosa ha raccolto l'opinione di due professori sul perimetro e il possibile gettito di questa operazione. Ugo Arrigo è il primo, è docente di scienza delle finanze alla Bicocca di Milano. Difficile capirlo sulla base delle dichiarazioni che sono emerse tra ieri e oggi. Sicuramente gli elementi che possono essere oggetto di privatizzazione sono riconducibili a due grandi categorie, sono gli immobili e le imprese pubbliche. Gli immobili possono dare un gettito degli introiti molto più elevati rispetto alle imprese pubbliche, ma le imprese pubbliche hanno un impatto molto maggiore rispetto alle attese dei mercati e quindi possono avere delle conseguenze molto di rilievo molto maggiore. Per quel che riguarda gli immobili, qual è il risultato finale a cui potrebbe aspirare lo Stato? Perché ovviamente poi non tutti gli immobili sono cedibili e non tutti sono appetibili sul mercato. Non tutti gli immobili sono cedibili perché ovviamente quelli che sono usati direttamente dalle amministrazioni pubbliche forse è più conveniente mantenerli in proprietà anziché privatizzarli e poi riprenderli in locazione, e però molti immobili che sono usati da amministrazioni pubbliche che sono di pregio potrebbero essere ceduti e le amministrazioni pubbliche trasferirsi in immobili più periferici, meno costosi come locazione. La cifra che si può ottenere privatizzando immobili pubblici, le stime convergono tra i 200 e i 300 miliardi di euro, quindi è una cifra importante, può permettere di ridurre in maniera sensibile lo stock del debito pubblico, però ovviamente questa cifra arriverà lentamente nel tempo, quindi il processo è destinato a durare credo 10-15 anni se lo si fa con serietà. Le imprese pubbliche sono molto più interessanti per altri aspetti. Da questo punto di vista dobbiamo anche qui distinguere tra quelle che sono le imprese pubbliche nelle dirette mani dello Stato e quelle in cui gli enti locali hanno partecipazioni. Bisogna distinguere tra i due gruppi. Non tanto perché i due gruppi di imprese abbiano natura economica, abbiano specificità differenti, quanto perché nelle ultime amministrazioni governative, quindi la gestione Tremonti e l'attuale gestione, mi sembra che il governo, i governi siano molto più favorevoli a indurre gli enti territoriali a rinunciare alle loro imprese pubbliche, ma i due governi che si sono succeduti negli ultimi tempi sono per il momento poco propensi a vendere le aziende di proprietà dello Stato centrale, mentre invece a mio avviso bisognerebbe dare l'esempio e lo Stato dovrebbe dire: io privatizzo quella parte di Ferrovie che si può privatizzare, le Poste eccetera eccetera, incomincio a privatizzare io e chiedo agli enti territoriali di seguirmi. Invece sinora il percorso è stato quello opposto: voi enti territoriali privatizzate le vostre imprese pubbliche perché così contribuite ad abbattere il mio debito. Tra l'altro c'è anche da dire che molte di queste municipalizzate hanno i bilanci in rosso. Beh sì, quelle veramente appetibili sono alcune, prevalentemente in area energetica, alcune grandi imprese, quindi la 2A di Milano, la CEA, però voglio dire la gran parte delle imprese pubbliche territoriali sono nel campo dei trasporti, quindi hanno bilanci forse appena appena in pareggio quando va bene. Diciamo sarebbe anche tra virgolette meglio da un punto di vista economico poi dismettere le partecipazioni nelle grandi aziende. Le partecipazioni nelle grandi aziende possono essere dismesse, ma un esempio poteva essere Snam Rete Gas, voglio dire, anche se Snam Rete Gas, se la comprano azionisti stranieri, non potranno mai sradicare la nostra rete gas per trasferirla a casa loro, e quindi l'interesse pubblico si manifesta, si difende con la regolamentazione, con l'autority per l'energia, non con la proprietà diretta. Quindi questo poteva essere un esempio di privatizzazione fatta sul serio, nel quale la Snam Rete Gas, il controllo si cede a chi è disponibile a pagarla di più. Questo, come anticipato, era il professor Ugo Arrigo, docente di scienza delle finanze alla Bicocca di Milano, più scettico invece sulle eventuali operazioni di dismissione di asset pubblici e del patrimonio pubblico da parte del governo, il professor Gustavo Piga, ordinario di economia politica all'Università Tor Vergata a Roma. Sono due tipi di perimetro: il primo perimetro dove vedo delle criticità è il perimetro temporale, nel senso che se pensiamo a raggiungere delle dimensioni un minimo ambiziose, non credo che nel giro dei prossimi sei mesi, prima di sei mesi, riusciremo a dare al mercato dei segnali forti. Il secondo perimetro rilevantissimo, ancora più rilevante, è quello dimensionale. Non credo che ci siano spazi, di nuovo, nei prossimi sei mesi, un anno, per riduzioni, insomma, gettito che entra da vendita di patrimonio, che sia societario o immobiliare, al di sopra del 4-5% di prodotto interno lordo, e quindi con un effetto sul rapporto debito-PIL non enorme. C'è un'altra criticità, che mi sembra ancora più rilevante. L'idea è che questo possa rassicurare il mercato. Significa pensare che il problema dell'Italia in questo momento sia il livello dello stock di debito pubblico e che riducendolo gli spread potrebbero scendere. Se lei fosse un cattivo debitore di una banca e andasse dal suo banchiere a dirgli: guarda, ho ricevuto una meravigliosa eredità da mia nonna che è morta e adesso posso ripagarti metà del debito, mi ricominci a prestare per favore, non è che la banca ricomincia a prestare semplicemente perché ha avuto questo regalo, sempre sospettoso rimarrà. Con il che voglio dire che il mercato aspetta dall'Italia delle mosse che dimostrino che sa crescere. La vendita di patrimonio pubblico dice molto poco sulla capacità dell'Italia di crescere. In questo senso, molto più importante sarebbe per il mercato vedere che sia per quanto riguarda la gestione di queste società partecipate, sia per quanto riguarda la gestione di questo patrimonio, la governance e l'efficienza nel gestirle migliorasse. Molto più importante sarebbe dimostrare, molto più facile da fare, gestire gli spazi molto meglio, gestire gli affitti in maniera più razionalizzata. Lì secondo me ci sono molti sprechi che possono essere utilizzati per poi mostrare all'Europa che si fa sul serio con una pubblica amministrazione nuova. Se vogliamo privatizzare tutte le nostre società municipalizzate, bene, ma ricordiamoci che molte volte quando le privatizziamo non è che funzionano tanto meglio. Quello di cui abbiamo bisogno è di meccanismi di controllo tali che se io faccio qualche cosa di sbagliato pago, e quindi vogliamo una gestione dell'idrico migliore, una gestione delle nostre utilities migliore. È questo che i mercati si aspettano, uno Stato che funzioni meglio, uno Stato che vende non è uno Stato che ha dimostrato tantissime qualità, e quindi io non credo che gli spread crolleranno anche se superassimo il problema della tempistica, del problema della piccola dimensione di questa operazione. E allora queste sono le opinioni relativamente alle misure che arriveranno presto, probabili, perché chiaramente ancora il dettaglio non lo abbiamo, per cedere asset pubblici, nuovo programma del governo Monti per abbattere il debito pubblico, perché il nostro obiettivo prioritario in questo momento è proprio questo. Dopodiché chiaramente, anche se poi le iniziative dovranno essere necessariamente contestuali visto che l'Europa ce lo chiede a gran voce, anche i progetti per la crescita, correntisti di Banca Network Investimenti, che praticamente è sull'orlo del fallimento e ha bloccato a fine maggio i conti correnti appunto per i suoi 30.000 clienti. Noi ne parleremo diffusamente domani a Salvadanaio, perché anche le modalità con cui è avvenuto questo blocco lascia molto a desiderare, direi è stata estremamente discutibile visto che non c'è stato nessun preavviso, nessuna comunicazione ai propri clienti, che non immaginavano quello che stava accadendo pur essendo commissariata da mesi l'azienda. Detto questo, appunto, vi rimando all'appuntamento domani alle 12:10. Un altro caso interessante, lo stavamo commentando, lo saluto direttamente, Fabio Pavesi, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te, agli ascoltatori. Stavamo commentando la giornata di borsa che ha cambiato completamente direzione, soprattutto negli ultimi minuti. Finalmente vediamo un piccolo raggio di sole splendere su questa giornata, più 1,47% per Milano. Però diceva Fabio, non ci dimentichiamo che lunedì, con l'esito delle elezioni greche, può cambiare completamente il quadro, ecco, nel bene o nel male. Allora godiamoci questo momento, ma intanto andiamo invece a parlare dell'altro caso del giorno, finanziario e giudiziario insieme, oggi soprattutto giudiziario, perché Fabio è arrivato proprio poco fa dal Tribunale di Milano, dove la seconda sezione civile ha dichiarato il fallimento di Sinergia e Inco. E chi sono mai, si chiederanno in molti, sono le holding della famiglia Ligresti, la famiglia che controlla la compagnia di assicurazione fondiaria SAI, e attraverso l'altra holding in cima, perché anche qua stiamo parlando di una catena lunghissima, che è la Premafin. Oggi i giudici Roberto Fontana, Filippo D'Aquino e Filippo Lamanna hanno respinto la richiesta di un ulteriore rinvio di 2 settimane per presentare un piano di salvataggio secondo l'articolo 182 bis, e hanno accolto l'istanza di fallimento che era stata invece presentata dal pubblico ministero. Luigi Orsi, si chiude anche se non ancora definitivamente, un capitolo tristissimo per quello che riguarda la finanza italiana. Fabio, tu l'hai seguita molto da vicino, appunto, tutta quanta la vicenda, soprattutto dal profilo giudiziario. Noi, quando ce ne occupiamo delle vicende, appunto, in casa Fondiaria Assai, stiamo cercando di capire in quali mani nuove, in quali nuovi azionisti, appunto, potranno andare a controllare nei prossimi mesi proprio il gruppo, la compagnia di assicurazione. Ma intanto questa parabola della famiglia Ligresti oggi racconta veramente un esito clamoroso in qualche maniera. Sì, diciamo che è un fallimento eccellente, eccellente per la portata dei protagonisti. Non dimentichiamo, la famiglia Ligresti è la famiglia della Milano da bere degli anni Ottanta, grandi costruttori immobiliari, poi la presa su Fondiaria all'inizio degli anni 2000 e la costruzione di questo grande impero assicurativo con una filiera lunghissima, la Premafin, sotto cui stava la Fondiaria, sotto cui stava la Milano Assicurazioni. Ebbene, il fallimento di oggi riguarda le due scatole in cima a tutta la catena, i due veri forzieri, un eufemismo in questo caso, della famiglia, una famiglia potente. Ricordiamo che la Ionella Ligresti sedeva nel CDA di Mediobanca, ricordiamo che Mediobanca da sempre è vicino alla famiglia in tutte le vicende che riguardano adesso il riassetto Fonsai. Come mai i giudici sono andati a questa decisione? Ma è molto semplice, perché il PM, quando chiese per la prima volta il fallimento, dichiarava che le due società erano insolventi fin dal 2010, ma dai bilanci non si vedeva ciò. Ed è vero, perché io sono andato a vedere i bilanci, la Inco aveva chiuso con 60 milioni di utili. L'anno dopo, cioè 4 mesi fa, la IMCO chiude il bilancio con 227 milioni di perdite, un patrimonio netto negativo per 81 milioni. Dove allora, erano finiti questi soldi? Esatto, delle due l'una, o il bilancio del 2010 non era veritiero, oppure sono state fatte le pulizie di casa, pulizie doverose che spesso le società tendono a rimandare all'ultimo minuto possibile. Quindi il salvataggio è arrivato dopo anni di occultamento delle difficoltà, il che è paradossale, perché la storia insegna che IMCO e Sinergia vivevano sostanzialmente di costruzioni immobiliari per Fondiaria Milano, cioè i Ligresti con le loro società personali compravano terreni edificabili dalle compagnie assicurative, si impegnavano a costruire immobili che poi facevano ricomprare a Fondiaria Assai e a Milano Assicurazioni a prezzi prestabiliti, spesso con varianti in corso d'opera, e con quindi il prezzo che continuava a salire nel tempo. Certo. Ma è come se con la mano sinistra, un poco la famiglia. Beh, evidentemente questo flusso di denaro significava che tu da Fondiaria Assai e Milano avevi dei soldi in uscita a favore della famiglia Ligresti in cambio di questi immobili venivano consegnati a lavori ultimati. Il paradosso di questa vicenda è che tuttora la Milano Assicurazioni ha finanziato con 140 milioni due immobili a Milano, via Confalonieri e via Fiorentini a Roma, che non risultano ultimati, e i Ligresti hanno trovato un accordo ieri sera con la Milano Assicurazioni per dire fino a che punto hanno provato a resistere a quello che poi è stata la decisione dei giudici di farli fallire. Praticamente i Ligresti si erano impegnati con la compagnia Milano a trattenere i soldi, lasciando alla Milano gli immobili non ultimati. Mm-hmm. Il che è un danno per gli azionisti di minoranza a Milano, perché io nelle mie società personali posso fare quello che voglio, ma quando ho di mezzo degli azionisti di minoranza, e mi spiace, ma questi vanno tutelati. Ed è una delle ragioni che ha spinto il giudice Luigi Orsi a dichiararla insolvente, perché lì il salvataggio cosa configurava? Non erano le banche a ridare soldi ulteriori ai Ligresti, ma si metteva di mezzo un fondo gestito da Manfredi Catella, che a Milano sta costruendo Porta Nuova. Com'è che si chiama? Ines? Ains, è una società americana, in Italia è gestita da Manfredi Catella. Ebbene, questo fondo avrebbe dovuto rilevare gli immobili rimasti ai Ligresti, e anche qui dopo decenni di potenza di fuoco a Milano, i Ligresti si ritrovavano con un terreno edificabile a Milano Sud e la tenuta Cesarina Agricola a Roma. Questo era quanto è rimasto alla famiglia dopo 10 anni di grandi successi, quindi per dire che evidentemente qualcosa in famiglia non ha mai funzionato nella gestione delle cose. Ebbene, finché hanno potuto se li sono goduti al meglio con i cavalli, non lo sappiamo, di una delle esatto, Ligresti, poi si è saputo delle consulenze, e tanto altro. Ma il fatto grave, appunto, risulta che il salvataggio vedeva impegnato un fondo che a sua volta cercava come investitore gli enti di previdenza. Cioè gli enti di previdenza, l'ENPA, Menasarco, avrebbero dovuto accollarsi questo portafoglio immobiliare più tutti i debiti che superavano il portafoglio immobiliare, perché ricordiamoci, la società era gravata da 400 milioni di debiti e il portafoglio ne valeva 290. Mm-hmm. Quindi erano più i debiti delle attività degli immobiliari. Degli asset in portafoglio. Ebbene, cosa significava? Che i Ligresti tra l'altro volevano 50 milioni di soldi liquidi per sopravvivere, quindi il salvataggio avrebbe esposto i fondi di previdenza italiano, o chi avesse deciso di contribuire al salvataggio, a un'iniziativa rischiosa, perché si accollavano terreni edificabili che avrebbero avuto delle realizzazioni d'opera magari dopo 10 anni, quindi con un rischio speculativo altissimo. Hanno chiesto un rinvio proprio perché non trovano investitori, perché evidentemente, come dire, hanno provato in tutti i modi col presidente Calabi, nominato appunto per cercare il salvataggio finale, di salvare le due compagnie, ma di fronte all'inconsistenza degli investitori, di fronte al fatto che neanche le banche erano disposte più a mettere soldi. E infatti, chi voleva tra l'altro queste due ulteriori settimane per predisporre eventualmente altre iniziative? Lo voleva il collegio liquidatore, il cui presidente era Calabi, quello che ha ottenuto per risanamento invece il salvataggio, ma in questo caso Calabi non ce l'ha fatta. Evidentemente la partita era, uno, troppo pericolosa, due, le banche si erano fin troppo esposte, e tre, secondo me, ha contato anche il fatto che i Ligresti hanno fatto troppo quello che hanno voluto nella partita a valle. Certo. Cioè fondiaria. C'è un limite a tutto, ha detto anche il pubblico ministero. È probabile che sia un limite a tutto, cioè i Ligresti con le loro intemperanze sulla fusione Fonsai, con il loro tentativo di resistere fino all'ultimo, hanno alla fine indispettito anche i loro partner, Mediobanca stessa, che si è trovata questo continuo dietro fronte a parte della famiglia. Gli effetti a valle non sono quantificabili, perché di fatto la famiglia, con l'approvazione del piano tra virgolette grande Unipol, vedrà la famiglia avere una quota modestissima in minoranza, governerà Unipol, governeranno le banche. Il problema è che il fallimento espone però le banche, Unicredito in particolare, al rischio creditizio, perché ci sono 293 milioni di debiti che a questo punto rischiano di non tornare più a casa. Allora Fabio, ho un minuto di tempo, poi devo salutarti, abbiamo tanti altri argomenti da approfondire, solamente un minuto per dedicarci a tutte quelle persone che è inevitabile che ci chiedano che fine fanno i clienti finali della Fondiere S.A., che è la polizza assicurativa, che è un prodotto di previdenza complementare. Questi sono patrimoni separati che nulla hanno a che fare con il comportamento, diciamo, della famiglia, speriamo. Allora almeno. Io dico sempre che le società sono una cosa, i padroni spesso sono un altro, i padroni cambiano, come in questo caso, le società rimangono. C'è da dire che Fondiaria viene da un biennio di perdite, ha accumulato 2 miliardi di perdite sotto la gestione di Gresti negli ultimi 2 anni, ma va anche detto che i margini di solvibilità stanno migliorando, va anche detto che nel primo trimestre 2012 gli indicatori economici sono in miglioramento, e col nuovo assetto azionario, quindi con la fusione con Unipol, è vero, si fondono due compagnie non in grande salute, ma obiettivamente fondendo due compagnie non in buona salute, ma tu allarghi l'attivo e quindi in qualche modo diluisci il rischio. Spagno. Io dico sempre alle persone, appunto, non riguarda, quando una società è in difficoltà, pensiamo anche alle banche, il caso però di Banca Network è clamoroso, dicevo a Deborah che è la prima volta che ci risulta che il fondo interbancario debba intervenire, perché ci sono 10 banche commissariate in Italia, ma finora nessuno credo aveva che il fondo chiesto qualche interventino l'abbia fatto, poi domani lo racconteremo. Sì, e questo è molto interessante, però appunto sono casi veramente eccezionali, e quindi nessuna preoccupazione su polizze, fondi comuni della compagnia fondiaria SAI. È cambiato l'azionista di riferimento. Allora, siamo molto in ritardo, però abbiamo approfondito le vicende giudiziarie in casa Ligresti, che non finiscono mai di stupire. Adesso invece andiamo alla giornata di borsa. Dobbiamo correre tanto e lo faremo con Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Paolo, buonasera, più 1,47% sul finale per Milano, una bella sorpresa. Abbiamo pochi minuti, raccontaci tu i casi più interessanti della giornata. Sì, come hai detto tu, la borsa di Milano proprio nell'ultima mezz'ora di contrattazione ha guadagnato praticamente un punto percentuale, chiudendo in rialzo di 1,5%. Ha fatto bene anche Madrid, più 1,2%. La borsa assolutamente migliore in Europa è stata Atene, che ha guadagnato oltre il 10% oggi. oggi diciamo che l'attesa di tutto il mercato è proprio per le elezioni greche che sono in programma e nel weekend, da cui molti fanno dipendere proprio la permanenza di Atene nell'euro e quindi ovviamente poi conseguenze a catena su anche molti altri paesi europei. Tra i titoli di Piazza Affari alla fine hanno chiuso bene le banche, dopo una giornata molto incerta hanno festeggiato la discesa sul finale dello spread dopo che il differenziale in mattinata era salito quasi a quota 490 punti base, mentre alla fine ha chiuso in discesa a 466, e quindi proprio i titoli bancari sono i migliori di Piazza Affari, quelli che hanno trainato i listini. Invece il peggiore tra le blue chip è ST Microelectronics, che ha perso il 2,05%, qui a pesare è il tonfo di Nokia, che ha perso oltre il 15% a Helsinki dopo aver annunciato un nuovo piano di ristrutturazioni che tra l'altro prevede il licenziamento, quindi l'uscita di oltre 10.000 lavoratori da qui alla fine del 2013. Se devo finire proprio per stringere un altro titolo tra i titoli più piccoli, più volatili, più sottili, Archimedica oggi ha fatto una performance quantomeno inusuale, meno 85%. Che gli è successo? Qui c'è da dire che appunto è entrato in esecuzione il complesso concordato preventivo della società, che ha previsto tra l'altro un raggruppamento di azioni e poi due aumenti di capitale, quindi diciamo che i titoli si sono dapprima allineati ai prezzi degli aumenti di capitale, che erano 0,8 euro per azione, e poi è stato punito ulteriormente perché ha chiuso a 0,68 euro. Grazie a Paolo Paronetto per essere stato con noi. Peraltro volevo condividere con te la gioia per una volta tanto di vedere in Europa l'unico segno meno a Francoforte, meno 0,23%. Non è tanto, ma ieri parlavamo anche dell'esito dell'asta dei Bund, che ha manifestato un nuovo aumento dei tassi di interesse. Siamo molto lontani dai tassi riconosciuti sui BTP italiani. Naturalmente però questo piccolo raffreddore che la signora Merkel sta gestendo in questi giorni un pochino ci rende anche un po' più allegri. Paolo, grazie, buona serata. Allora, adesso invece cambiamo argomento e andiamo a parlare dell'attività delle Camere di Commercio in Italia. Qualche minuto di tempo per conoscere, ma in realtà era già in sella a questa, in questo ruolo, già con il precedente mandato, il presidente di Union Camere, Ferruccio Dardanello, confermato ieri presidente, buonasera presidente, per il prossimo triennio fino al 2015, per cui sa, tante volte in certe circostanze ai nuovi presidenti si chiede che eredità le ha lasciato la vecchia presidenza, qui siamo in una situazione appunto di continuità. Ma Union Camere, per chi non lo sapesse, è l'ente che rappresenta le Camere di Commercio in Italia. Quante sono, presidente, nel nostro paese? Sono 105 in Italia. 105? Una per ogni territorialità provinciale. Una per ogni provincia. Allora, presidente, lei stamattina ha letto anche l'intervista che ha rilasciato alla stampa, intitolata "Subito lo sviluppo per dare fiducia", oltre ad interventi chiaramente fondamentali di natura materiale, decreto sviluppo e tanti interventi di sostegno, serve soprattutto un clima positivo alle nostre aziende. Insomma, qual è il suo pensiero di questa fase che stiamo vivendo? Io credo che l'ha detto lei poc'anzi, che c'è bisogno in questo momento di quella fiducia che mancano gli imprenditori per potersi dare meglio il presente, riguardare con un certa qual disponibilità al futuro. Oggi c'è bisogno innanzitutto di fiducia nel nostro paese, c'è bisogno degli interventi che il governo deve assolutamente attuare, ma c'è bisogno di recuperare quel senso di appartenenza ad un paese, quel senso di appartenenza che in questo momento ogni tanto viene un attimino meno. E non solo, ma c'è bisogno anche di rimettere in moto quel meccanismo che ci ha permesso di costruire in questi 150 anni una storia economica straordinaria, di portarci addirittura a diventare una delle più grandi potenze del mondo, partendo anche da uno strutturato imprenditoriale enorme, addirittura esagerato dal punto di vista numerico in relazione ai territori e alle popolazioni. Ma oggi c'è bisogno veramente di mettere freno a quella che sono alcuni handicap che purtroppo non possiamo più accettare, una burocrazia che sta mettendo veramente al palo quelle che sono le ambizioni della nostra gente, una tassazione che purtroppo non è più compatibile con la competitività, ma c'è bisogno di utilizzare quegli strumenti che sono, permetto di dirlo, le Camere di Commercio, per rimettere in moto anche quelle cose a costo zero per lo Stato, ma che possono assolutamente irradiare e rimettere in moto meccanismi di forte utilità. E noi stiamo lavorando in questa direzione e sarà probabilmente l'oggetto di questo nuovo triennio. Il triennio passato è un triennio da dimenticare, eravamo partiti con tante speranze e l'abbiamo concluso in questi giorni con tanta santissima preoccupazione, ma noi siamo convinti che questo paese ha ancora tale tanta benzina da mettere nel nostro motore per poter riprendere un cammino e per potergli dare, io credo, di nuovo una nuova dignità per i prossimi anni del nostro lavoro, ma io credo per i prossimi anni dell'economia italiana. Mm-hmm. E in quale direzione? Io credo che oggi il settore che sta facendo, non diciamo sorridere, ma sta dando un po' di fiducia, ecco, ai nostri imprenditori è l'esportazione, è l'export. Su questo tema ci siamo impegnati a accompagnare 10.000 nuovi imprenditori piccoli, quelli che da soli non sarebbero in grado di affrontare il mare aperto dell'internazionalizzazione, e di accompagnarli sui mercati del mondo, dove questo brand del Made in Italy, mi creda, è ancora il più stimato, il più apprezzato, il più agognato in termini generali che ci sia. Abbiamo fatto recentemente un'indagine a livello internazionale, dopo Coca-Cola e Visa, mi dispiace dover fare questi due passaggi pubblicitari. No, ma non si preoccupi, ci mancherebbe. Conosciuto al mondo è Made in Italy. Mm. E Made in Italy vuol dire tutto quello che noi sappiamo fare, della nostra fantasia, la nostra capacità, la nostra professionalità, la moda, il canto, la musica, l'agroalimentare. Quindi c'è ancora grande spazio per valorizzare le nostre capacità. Presidente Dardanello, le volevo chiedere una cosa, abbiamo un paio di minuti di tempo. Noi viviamo un contesto in cui il PIL è tecnicamente arretra continuamente, quindi siamo in recessione, e soprattutto il numero delle imprese che chiudono la saracinesca, che la abbassano rispetto a quelle che sono in grado di alzarla ex novo, sono di più praticamente, chiudono più imprese rispetto a... esatto, le camere di commercio. Il saldo in questo momento, anche se è drammatica la situazione, il saldo delle imprese sono più quelle che aprono che quelle che chiudono. Ecco. Il problema nostro è di mantenere aperte quelle che riaprono. Che tipo di iniziativa però registrate alle camere di commercio, visto che siete anche uno dei primi punti di appoggio, no? Per sbrigare anche tutta la burocrazia che è necessaria per avviare un'attività d'impresa? Siamo i grandi protagonisti oggi sulla semplificazione, tutti i passaggi della burocrazia li stiamo cercando di abbattere. Noi vogliamo fare uno Stato burocrazia zero e ci riusciremo, ma non solo, vogliamo dare la benzina anche a questi nuovi imprenditori. In questa annualità abbiamo messo 140 milioni di euro a disposizione dei Confidi per dare valore, per dare credito alle piccole e medie imprese, a tutti coloro che credono ancora nell'impresa e vogliono investire in questa direzione. E poi stiamo innovando, ecco, perché solo con la qualità si riescono a vincere le grandi sfide, e stiamo mettendo in modo anche i meccanismi per dare non solo innovazione ma anche, io credo, nuova infrastrutturazione per quanto riguarda il digital divide e tutte queste autostrade del futuro sul quale noi siamo indietro. Buonasera a tutti, ben tornati a Focus Economia, questa sera insieme a voi Deborah Rosciani. Allora, ve lo preannuncio già, faremo un piccolo blitz anche in Polonia per monitorare da vicino l'andamento della partita dell'Italia. C'è il nostro Dario Ricci, ma intanto ritorniamo ai temi economici. Fra un po' commenteremo la giornata del mercato obbligazionario, l'esito dell'asta di BTP a 3-8 anni appunto di questa mattina, ma prima partiamo con un altro argomento e partiamo con i fari accesi ancora sull'Expo 2015, evento per il quale sono attesi 20 milioni di visitatori e grazie al quale è prevista la creazione di 45.000 posti di lavoro, evento centrale di Milano di quell'anno, ma naturalmente evento per il quale ci si sta preparando ormai da tempo. Cosa è successo però negli ultimi giorni lo sapete bene: si è dimesso Giuliano Pisapia, il sindaco di Milano, dalla carica di commissario straordinario dell'Expo, e dopo questa vicenda, dopo questa decisione, l'amministratore delegato di Expo 2015 Giuseppe Sala ha smentito il rischio che era a questo punto tra le pieghe di molte discussioni che si sono fatte negli ultimi giorni, che salti completamente il progetto che, ha detto Sala, va avanti anche se i tempi stringono. Lo ha intervistato per noi la nostra Anna Marino. Il problema in questo momento in senso pratico non c'è, nel senso che sui primi lavori e sulla prima gara noi abbiamo già chiesto al sindaco di esercitare i poteri, e il sindaco è commissario straordinario e l'ha fatto. A fine luglio andremo ad assegnare una seconda gara che tra l'altro sarà la gara più importante, una gara che parte da una base d'asta di 270 milioni. Lì di nuovo servirà probabilmente esercitare i poteri, quindi insomma non è un problema urgentissimo, ma è un problema che va risolto. Ecco, urgentissimo è invece risolvere chi si occuperà da qui in poi dell'Expo e che destino avrà, secondo lei? No, beh, diciamo, chi si occuperà a livello operativo, ovviamente non credo di poter dire continuerò a essere io, su chi potrà esercitare questi poteri, che è un ruolo diverso, che ovviamente agirà a mia chiamata su quando sarà necessario, è una decisione che verrà presa dal governo. C'è una mancanza di volontà di fare l'evento come ha avuto il dubbio Formigoni? Mi piace scherzare su tante cose, ma su questo proprio credo che ci sia poco da scherzare. Qui abbiamo un impegno col paese, abbiamo aziende che hanno già con noi firmato dei contratti, abbiamo paesi che hanno già indicato che metteranno dei soldi, hanno nominato commissari, hanno presentato progetti. Ecco, su queste cose qua chi ha un po' di dignità non deve scherzare. Noi non possiamo e non dobbiamo bloccare questa macchina. Quindi il mio impegno personale è portare l'operazione in porto nei tempi giusti e con le risorse che mi verranno assegnate. Ma veramente si può sorridere oppure c'è veramente da arrabbiarsi quando si sente qualcuno che dice magari fermiamoci, magari rinunciamo, ma non scherziamo, ma chi glielo va a dire alle aziende del territorio che sono senza lavoro, chi glielo va a dire ai 1000 professionisti che potranno trarre benefici? Io no di certo, per cui io sono straconvinto che questa sia una grande opportunità e ovviamente continuerò a lottare giorno per giorno affinché la cosa venga riconfermata. Non solo per le penali, ma anche per il fatto che il problema è comunque una, diciamo, una rinuncia del paese molto importante. Sì, gli altri paesi investiranno con i loro padiglioni circa almeno 1 miliardo di euro e questi soldi ricadranno sul territorio, cioè non è che il Giappone che si fa il padiglione si porta i materiali con cui fare il padiglione al Giappone, bisogna essere chiari su questo. Le aziende, noi oggi abbiamo già dei contratti con Telecom, Cisco, Accenture e Enel che investono 150 milioni, investono 150 milioni, quindi io capisco che qualcuno si può porre la domanda ma sono troppi soldi in questo momento, però sommessamente faccio presente che i soldi che escono dalla cassa pubblica sono perlomeno bilanciati dai soldi degli altri paesi e delle aziende. E quindi ma chi è così folle di pensare di rinunciare a questa opportunità? Cambiamo di nuovo argomento, abbiamo già effettuato i nostri risparmi. Secondo il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, non è sostenibile dal settore un prelievo da 1 miliardo di euro a carico dell'industria farmaceutica. Naturalmente qua stiamo andando al tema legato alla spending review, alla revisione della spesa pubblica, il grande lavoro del commissario Bondi, lo possiamo chiamare proprio così, e il rapporto con le spese sanitarie. E appunto, dicevamo, Scaccabarozzi sostiene che non sia sostenibile dal settore il prelievo da 1 miliardo di euro a carico dell'industria farmaceutica come copertura dei 2,5 miliardi di minor finanziamento della sanità, perché le industrie del farmaco, dice il manager, pagano il 40% di questa cifra, mentre è un settore che rappresenta solo il 16% della spesa sanitaria. Anche Scaccabarozzi è stato interpellato da Anna Marino. La ricaduta sarà una ricaduta molto importante perché mette a rischio il PIL del paese, perché colpisce un settore che ha export e che impiega, e mette a rischio la permanenza di siti produttivi, la permanenza dei livelli attuali di impiego e soprattutto l'export, che comincia a dare dei segni importanti di cedimento. È un peso che non si può sopportare, perché negli ultimi 5 anni, a fronte del nostro mercato che vale 12 miliardi, noi abbiamo contribuito alla sostenibilità con penalizzazioni pari a 11 miliardi. E tra l'altro questo decreto che si renderà attuativo rientra risparmio di 2,5 miliardi nella sanità, a cui noi viene chiesto di ripianarne tra gli 800 milioni e 1 miliardo. Quindi noi, che rappresentiamo il 16% di tutta la spesa sanitaria, dovremmo ripianarne tra il 35 e il 40%. Questo non ci sembra, se non altro, sostenibile. Che cosa andrebbe fatto per ripianare il bilancio e soprattutto nel vostro settore, se deve essere fatto qualcosa? Il nostro settore ha abbondantemente contribuito negli anni scorsi, bisognerebbe applicare quel sistema di rigore che è stato applicato nella farmaceutica ormai negli ultimi 10 anni, anche al di fuori della farmaceutica, sull'83% della spesa, per evitare che i risparmi che vengono fatti nel 16% poi non siano controbilanciati dagli sprechi che ci sono nel restante 83%. E quindi lei che cosa risponde a questa ipotesi di maggiori spese, maggiore peso sul vostro settore al governo che intende appunto fare un intervento? Noi capiamo benissimo l'esigenza del governo di rendere sostenibile il sistema paese. Quindi chiediamo al governo di rendere per noi meno insostenibile questo intervento e di farlo in maniera più equilibrata, se proprio deve essere fatto, perché se non viene fatto in maniera equilibrata, adesso ci sono dei dettagli tecnici su cui non entro, ma se non viene fatto in maniera equilibrata veramente mette a rischio il PIL del paese, perché noi siamo un settore che per il PIL e per la crescita può rappresentare molto. Quindi voi chiederete un incontro a Monti o a, diciamo, a noi Balducci? Abbiamo già chiesto un incontro a Monti, abbiamo avuto degli incontri con il Ministero dello Sviluppo Economico e con la Salute, proprio perché si possa trovare un equilibrio che ci consenta di continuare a sopravvivere in questo paese. Le ricadute che si potrebbero avere se viene delocalizzata la ricerca e la sperimentazione clinica, su cui vediamo già dei segnali preoccupanti, perché c'è una diminuzione non solo della produzione ma anche degli investimenti in ricerca clinica, questo porterebbe a una penalizzazione del cittadino italiano, perché i prodotti innovativi, che sono ovviamente per malattie più serie, in Italia non potrebbero essere disponibili come dovrebbero essere invece. E allora, assodato che si pronuncia review, perché anche Moria Longo, che ha vissuto in America qualche anno fa, ce l'ha confermato. Andiamo un po' invece a parlare, lo so, con un po' di sofferenza, adesso ci divertiremo forse molto di più. Andiamo a parlare invece dell'asta dei titoli di Stato che c'è stata questa mattina. Appunto, il Tesoro si è presentato dopo già quella di ieri, che aveva fatto preoccupare un po'. Si è presentato di nuovo questa mattina con BTP per 3,8 per 5, sì, adesso sto facendo la tombola. 3 anni e 8 anni per complessivamente 4 miliardi e mezzo di euro. Tutto collocato senza problemi, una domanda piuttosto alta, ma Moria, anche in questo caso mercato, gli investitori sono stati molto esigenti. Sì, perché i rendimenti sono saliti moltissimo, dal 3,91% dell'ultima asta di un mese fa al 5,30% di adesso, quindi è un'impennata fortissima dei rendimenti che riflette non tanto la situazione italiana ma la situazione europea, con questi due focolai nuovi, comunque che stanno divampando, che sono da un lato la Grecia che andrà alle elezioni domenica con mille incognite e dall'altro la Spagna che ha dovuto chiedere il weekend scorso aiuto per le proprie banche, aiuto che potrebbe, anzi il mercato lo dà per certo, che potrebbe mettere in difficoltà lo stesso governo aumentando in maniera fortissima proprio il debito pubblico spagnolo, e tant'è vero che tutti scommettono ormai sul fatto che la stessa Spagna avrà bisogno di aiuti. Se così fosse, il problema è la mancanza di fondi, perché i fondi attualmente esistenti nei due fondi salva stati attualmente esistenti in Europa, le FSF che esiste già e le ESM che nascerà a luglio, che nascerà a luglio, sommando insieme, contando tutte le spese, tutti i salvataggi già fatti, le tranche ancora a pagare, ci sarebbero intorno ai 350 miliardi, quindi che è proprio la cifra che si dice, si stima sul mercato, potrebbe servire per salvare da un lato le banche spagnole e dall'altro il governo spagnolo. Quindi quello che spaventa è che l'Italia, se dovesse, con l'uscita della Grecia dall'euro eventuale, con una esasperazione della crisi spagnola, se dovesse aver bisogno anche l'Italia, non esiste più la rete di protezione. E quindi insomma cerchiamo di fare in modo che questa eventualità sia scongiurata. Questo assolutamente, però il timore, il mercato vive anche di umore, di aspettative. Di aspettative, ma anche di paure, perché poi alla fine questa è un'eventualità che tutti dicono: l'Italia non ha migliorato i conti pubblici, tutti lo riconoscono, però se il mercato ti viene contro, salgono i rendimenti, a un certo punto è difficile per tutti. Ecco, e i rendimenti salgono anche perché c'è la consapevolezza che se salissero troppo e se l'Italia avesse effettivamente alla fine bisogno anche lei di una mano, non ci sarebbero le disponibilità. Certo. E quindi questo ovviamente crea maggiore incertezza e maggiore, quindi è un gatto che si morde la coda, fa salire ulteriormente i rendimenti. Ti chiedo invece un commento su un altro aspetto che ha generato un po' la mia così curiosità. La commentavo ieri anche con un direttore investimenti di una grande banca che è venuto a Salvadanaio e commentava l'esito dell'asta di bot di ieri mattina. Mercato ha collocato appunto i bot annuali, anche in questo caso con un rendimento che è schizzato alle stelle perché è quasi raddoppiato, dal 2,34% dell'asta di maggio al 3,97% appunto che il mercato ha chiesto ieri. Questo mercato che in questo momento fa i rendimenti dei titoli italiani è il mercato delle banche italiane, quindi suscita molta curiosità il fatto che siano proprio i nostri istituti di credito domestici appunto a chiedere questo al tesoro. Questo è una delle cose che sta inguaiando la Spagna. Perché in Spagna c'è problema? Perché negli ultimi tempi il debito pubblico spagnolo l'hanno comprato al 90% a Spagna, però in gran parte le banche spagnole. Attualmente soltanto il 37%, questo è un dato vero e puntuale, solo il 37% del debito pubblico spagnolo è in mani non spagnole, tutto il resto è in Spagna. Cosa succede? Dal momento in cui le banche spagnole hanno comprato tanto debito spagnolo, 90 miliardi negli ultimi mesi, dal momento in cui il debito spagnolo sta perdendo di valore e alzando i rendimenti, le banche incassano perdite, tant'è vero che anche questo è una delle tante motivazioni per cui hanno bisogno di aiuto, ovviamente la minoritaria, perché hanno problemi immobiliari, però anche questa. È ovvio che le banche spagnole smetteranno di comprare titoli Stato spagnoli, ed è per questo che lo Stato spagnolo sta faticando a trovare finanziamenti sul mercato. In Italia non siamo in questa situazione, però anche da noi c'è stato questo fenomeno, che i titoli Stato italiani sono stati in gran parte acquistati dalle banche italiane con i soldi prestati alle banche italiane dalla Banca Centrale Europea. Allora, anche qui, quanto potranno andare avanti le banche italiane a comprare titoli di Stato italiani? Questa è un'altra incognita che preoccupa. Per cui, diciamo, tornando al tema di prima del rialzo dei rendimenti, il rialzo dei rendimenti è dovuto non a una situazione italiana, perché, ripeto, l'Italia ha fatto una serie di riforme, alcune più o meno hanno centrato gli obiettivi che si prefiggeva il governo, però di passi avanti ne ha fatti anche con la manovra, la riforma delle pensioni, cioè comunque ne sono stati fatti. Poi tutto è migliorabile, soprattutto sul fronte privatizzazione, spending review eccetera eccetera, però di passi avanti ne sono stati fatti ed è riconosciuto anche dalla Germania, dai paesi europei. Però il problema è questo, che qualcuno deve comprare i titoli di Stato, perché l'Italia ha un debito pubblico talmente grande che serve del mercato. Allora, se la fiducia non c'è, ripeto, non sull'Italia perché si chiama Italia, ma perché è il paese più indebitato come debito pubblico, quindi soffre il contagio dei paesi limitrofi, a quel punto il problema diventa serio. E le banche italiane dubito che potranno andare avanti a comprare all'infinito, anche perché questo crea un cortocircuito sempre maggiore, perché il rischio Italia, il rischio banche italiane si sta sempre più fondendo l'uno con l'altro, e questo crea una concentrazione del rischio che è pazzesca. Certo. Un'ultima considerazione, poi possiamo passare ai saluti, abbiamo ancora 3 minuti di tempo circa per commentare questa situazione sui mercati obbligazionari in particolar modo. Ti chiedo un'altra così considerazione, se hai un'opinione in merito. Molti invocano una possibilità, una capacità di intervento diversa da parte della Banca Centrale Europea, che negli ultimi mesi è riuscita a placare gli spread, soprattutto degli stati più problematici, intervenendo ripetutamente sul mercato secondario, comprando in quel posto, in quel luogo, i titoli di Stato. Secondo te, se la BCE non ha questa possibilità di farlo, non credo che il suo statuto glielo permetta, potesse comprare direttamente sul mercato primario, quindi intervenire direttamente in asta, se lo avesse potuto fare ieri mattina, se lo avesse potuto fare stamattina per quello che riguarda il rapporto con il Tesoro italiano, i rendimenti sarebbero stati più tranquilli? Può darsi, sicuramente se ci fosse un impegno della BCE molto forte, sicuramente questo cambierebbe le sorti del mercato. Detto questo, però, la BCE può, anzi, per esempio nello statuto del Fondo Salva Stati è previsto che la BCE possa agire come agente del Fondo Salva Stati. Agente vuol dire che compra per il suo conto i titoli di Stato, per esempio italiani, che lo faccia sul mercato primario, cioè nel momento in cui il tesoro li colloca in asta, o il secondo successivo, alla fine cambia poco, perché anche una banca può partecipare all'asta dei BTP sapendo che dopo c'è la BCE che glieli compra. Però detto questo, secondo me invocare continuamente l'aiuto della BCE è un palliativo, cioè una cura palliativa, perché in realtà i problemi dell'Europa sono ben alti, lo sappiamo tutti, serve una maggiore unificazione, serve una serie di riforme strutturali dell'Unione Europea. La BCE può semplicemente dare liquidità, cosa che ha fatto, può fare di più, potrebbe fare anche come la Banca Centrale Americana, anche se attualmente non è previsto allo statuto, fare quantitative easing, stampare moneta e comprare tutti i titoli di Stato d'Europa, ma questo non risolve il problema. Questo magari è come la tachipirina, abbassa la febbre ma non risolve il problema. Allora il problema va risolto a livello politico, e io dal lato condivido anche quando Mario Draghi dice prima la BCE non può colmare i vuoti della politica, la politica dia il suo batta un colpo, poi anch'io farò la mia parte. Sinceramente non mi sembra che abbia tutti i torti, perché aspettare sempre che sia la BCE a stampare soldi e a regalare soldi come se fossero quelli del Monopoli mi sembra un po' eccessivo. Che pezzo stai preparando per domani per il Sole? Sto preparando un pezzo sulla difficoltà che stanno incontrando sempre più le banche anche italiane a trovare finanziamenti, anche a causa dei declassamenti di rating che certo. riducono la loro possibilità di dare collateral, cioè titoli in garanzia alla BCE, riduce una serie di possibilità e sta prosciugando ulteriormente la liquidità delle banche italiane, cosa che attualmente non è problematica perché la Banca Centrale Europea ha prestato alle banche italiane tra dicembre e febbraio moltissimi soldi, però piano piano rischia ulteriormente di creare tensioni. Pure quelli finiranno prima o poi, insomma. Grazie a Moria Longo per essere stato con noi, grazie a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, ci metto anche Marco Lombardo perché mentre io sono qua a Focus Economia un'altra persona sta preparando per me le trasmissioni dei prossimi giorni, grazie a Paolo Corleone per l'assistenza tecnica. Noi ci risentiamo domani, a Salva Danaio, a tutti buona serata. Radio 24, la passione si sente.